cazzo come una collana. La vita è una puttana e si chiama nana. Fuma marijuana per scordarsi chi è. Odia la magnana, me a casa in un menage a tre. Nana piange perché non piace agli altri. Mette all'estremo l'uomo e lo porta a suicidarsi. Se nana dice che vorrebbe far l'attrice, essere felice e andare a ballare con le sue amiche. Nana a volte la odio e a volte la ringrazio. Lei che mi ha portato un dono, fai rap e lascia un messaggio. Nana che ci darà nel silenzio di sta città. Se lei lo vorrà metterà fine a sto bam bam bam. Spara al corpo con l'ultimo colpo senza alcun accordo. Con l'abito sporco ripercorri il tuo percorso. Cammina a testa alta sotto i piedi un tappeto, che quando nana scende è amara come il cedro. La vita mia sta a metà fra la follia e la mania di ottenere il meglio, ma sembra impossibile. E quante volte poi ho sognato di scappare via. Davanti a mille occasioni restavo impassibile. Passami il jack, bevi con me. Fermati almeno te, che già il mondo corre. Cammini senza lasciare ombre. Siamo stupendi ma fragili come polle. Lui è un bimbo di periferia, dentro la sua via. Guarda il cielo blu, chimica e la scia. Chimica e la fame, vale quanto il rame. Intorno a sé uno sciame di persone, punge come un'ape. Immagini una sposa ai fini di una corda. Fertile la voglia, vita sorda sotto quella smorfia. Piange la tristezza, finta l'apparenza. Senza piatto il nigno prega, sfrega i margini una mensa. Cala sangue ormai tradita, rovescia la cressidra. Dipinge un eremita, una bellezza incinta. Sciolgono i ghiacciai, aerei senza scali. Risorgono gli amari, mangiano gli avari. Restano a guardare schiavi senza pane. Ma perché restare? Dove andare? No, non so che fare. Acceleri la corsa, chiuso in una morsa. Rubando quella forza, un giorno speri che poi tutto torna. La vita mia sta a metà fra la follia e la mania di ottenere il meglio, ma sembra impossibile. E quante volte poi ho sognato di scappare via. Davanti a mille occasioni restavo impassibile. Passami il jack, bevi con me. Fermati almeno te, che già il mondo corre. Cammini senza lasciare ombre. Siamo stupendi ma fragili come bolle. La vita mia sta a metà fra la follia e la mania di ottenere il meglio, ma sembra impossibile. E quante volte poi ho sognato di scappare via. Davanti a mille occasioni restavo impassibile. Passami il jack, bevi con me. Fermati almeno te, che già il mondo corre. Cammini senza lasciare ombre. Siamo stupendi ma fragili come puoi.